Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Il conformista di Alberto Moravia. Quarta puntata. Uno di quei giorni, Marcello si accorse che alcuni dei ragazzi, tra i più accaniti di solito a canzonarlo, confabulavano tra di loro. E gli parve di capire dai loro sguardi che tramassero qualche nuovo scherzo ai suoi danni. Tuttavia l'ora della lezione trascorse senza incidenti, sebbene le occhiate e i bisbigli lo confermassero nel suo sospetto. Venne il segnale dell'uscita e Marcello, senza guardarsi attorno, si incamminò verso casa. Si era ai primi giorni di novembre, con un'aria tempestosa e mite in cui parevano mescolarsi gli ultimi calori e profumi dell'estate ormai defunta con i primi ancora incerti rigori autunnali. Marcello si sentiva oscuramente eccitato da questa atmosfera di sgombero e di strage naturale in cui avvertiva una smania di distruzione e di morte molto simile a quella che mesi addietro gli aveva fatto decapitare i fiori e uccidere le lucertole. L'estate era stata una stagione immobile, perfetta, piena, sotto un cielo sereno, con alberi carichi di foglie e rami gremiti di uccelli. Adesso egli vedeva con delizia il vento autunnale lacerare e distruggere quella perfezione, quella pienezza, quell'immobilità, spingendo scure nubi stracciate nel cielo, strappando le foglie agli alberi e mulinandole a terra, cacciando via gli uccelli che infatti si scorgevano migrare tra le foglie e le nubi in neri stuoli ordinati. Ad una svolta si accorse che un gruppo di 5 compagni lo seguiva. E che lo seguisse non era dubbio, perché 2 di loro abitavano nella direzione opposta, ma immerso nelle sue sensazioni autunnali non ci fece caso. Adesso aveva fretta di raggiungere un grande viale piantato di platani dal quale, per una via traversa, si giungeva a casa sua. Sapeva che le foglie morte in quel viale si ammucchiavano a migliaia sopra i marciapiedi gialle e sonore, e pregustava il piacere di trascinare i piedi nei mucchi, scompigliandoli e facendoli frusciare. Intanto, quasi per gioco, tentava di far perdere le tracce ai suoi inseguitori, ora entrando in un portone, ora confondendosi con la folla. Ma i 5, come si accorse ben presto, dopo un momento di incertezza, sempre lo ritrovavano. Ormai il viale era vicino e Marcello si vergognava di farsi vedere in atto di divertirsi con le foglie morte. Decise allora di affrontarli e, voltandosi improvvisamente, domandò: «Perché mi seguite?» Uno dei 5, il biondino dalla faccia aguzza e dalla testa rapata, rispose prontamente: «Non ti seguiamo, la strada è di tutti, no?» Marcello non disse nulla e riprese il cammino. Ecco il viale, tra le 2 file di platani giganteschi e spogli, con le case piene di finestre allineate dietro i platani. Ecco le foglie morte, gialle come l'oro, sparse sull'asfalto nero e ammucchiate nei fossati. I 5 adesso non si vedevano più. Forse avevano rinunziato a seguirlo, e lui era solo per il largo viale dai marciapiedi deserti. Senza fretta entrò coi piedi tra il fogliame sparso sul lastrico e cominciò a camminare piano, godendo a sprofondare le gambe fino al ginocchio in quella mobile e leggera massa di spoglie sonore. Ma come si chinava ad afferrare una manciata di foglie con l'intenzione di gettarle per aria, udì di nuovo le voci canzonatorie: «Marcellina, Marcellina, mostra la mutandina». Allora gli venne ad un tratto una voglia di battersi quasi piacevole, che gli accese il viso di eccitazione pugnace. Si rialzò e andò con decisione incontro ai suoi persecutori, dicendo: «Volete andarvene, sì o no?» Invece di rispondere, gli si gettarono tutti e 5 addosso. Marcello aveva pensato di fare un po' come gli Orazzi e i Curiazzi, secondo l'aneddoto dei libri di storia: prenderli uno per uno, correndo qua e là, e assestare a ciascuno qualche brutto colpo in modo da convincerli ad abbandonare la loro impresa. Ma si accorse subito che questo piano era impossibile. Previdentemente i 5 gli si erano stretti tutti insieme addosso e ora lo tenevano uno per le braccia, un altro per le gambe e 2 a mezzo corpo. Il 5º, come si accorse, aveva intanto aperto in fretta un involto e ora gli si avvicinava guardingo, tenendo sospesa con le mani una gonnella di bambina, di cotone turchino. Tutti ridevano adesso, pur mantenendolo fermo, e quello della gonnella disse: «Su, Marcellina, lasciati fare. Ti mettiamo la gonnella e poi ti lasciamo andare dalla mamma». Era insomma proprio il genere di scherzo che Marcello aveva presentito, suggerito al solito dal suo aspetto non abbastanza maschile. Rosso in viso, furioso, prese a dibattersi con estrema violenza, ma i cinque erano più forti e sebbene gli riuscisse di graffiare il viso a uno e di assestare un pugno nello stomaco ad un altro, sentì che gradualmente i propri movimenti venivano ridotti. Finalmente, mentre gemeva «Lasciatemi, cretini, lasciatemi», un grido di trionfo fuggì dalle bocche dei suoi persecutori. La gonnella calava sulla sua testa e ormai le sue proteste si perdevano dentro quella specie di sacco. Egli si dibatté ancora, ma invano. Abilmente i ragazzi gli fecero discendere la gonna fino alla vita e poi sentì che gliela legavano con un nodo sul dorso. Allora, mentre essi gridavano «Stringi, dagli, più stretto», udì una voce tranquilla domandare, più in tono di curiosità che di rimprovero: «Ma si può sapere cosa fate?» Subito i cinque lo lasciarono fuggendo via e lui si ritrovò solo, tutto scarmigliato e ansimante, la gonnella legata alla vita. Levò gli occhi e vide, ritto davanti a lui, l'uomo che aveva parlato. Vestito di una uniforme grigio scura, il colletto stretto sotto la gola, pallido, scarno, gli occhi infossati, il naso grande e triste, la bocca sdegnosa e i capelli tagliati a spazzola, dava a tutta prima un'impressione di austerità quasi eccessiva. Ma poi, ad un secondo sguardo, come notò Marcello, si rivelavano alcuni tratti che nulla avevano di austero, al contrario, lo sguardo ansioso, ardente degli occhi, un che di molle e di quasi sfatto nella bocca, la generale insicurezza dell'atteggiamento. Egli si chinò, raccolse i libri che Marcello, dibattendosi, aveva lasciato cadere in terra e disse, porgendoglieli: «Ma che ti volevano fare?» Aveva una voce anch'essa severa come il viso, ma insieme non priva di una sua strangolata dolcezza. Marcello rispose irritato: «Mi fanno sempre degli scherzi, sono dei veri stupidi». Intanto cercava di slegare sul dorso la cintura della gonna. «Aspetta», disse l'uomo, chinandosi e sciogliendo il nodo. La gonna cadde in terra e Marcello ne uscì calpestandola e poi lanciandola con un calcio sul mucchio delle foglie morte. L'uomo domandò, con una specie di timidezza: «Non stavi forse andando a casa tua?» «Sì», rispose Marcello, levando gli occhi verso di lui. «Ebbene», disse l'uomo, «ti ci porto io, in macchina». E indicò, a non grande distanza, un'automobile ferma presso il marciapiede. Marcello la guardò. Era una macchina di un tipo che non conosceva, forse straniera, lunga, nera, di Foggia antiquata. Stranamente gli venne fatto di pensare che quella macchina ferma, lì a due passi da loro, denotasse una premeditazione nei casuali approcci dell'uomo. Esitò prima di rispondere. L'uomo insistette: «Vieni su. Prima di portarti a casa ti faccio fare un bel giro. Ti va?» Marcello avrebbe voluto rifiutare, o meglio, sentì che avrebbe dovuto, ma non ne ebbe il tempo. L'uomo gli aveva già tolto di mano il pacco dei libri, dicendo: «Te lo porto io». Già si avviava verso l'automobile. Lo seguì un po' stupito dalla propria docilità, ma non scontento. L'uomo aprì lo sportello, fece salire Marcello nel posto accanto al suo e scaraventò i libri sul sedile posteriore. Poi sedette al volante, chiuse lo sportello, infilò i guanti e mise in moto la macchina. L'automobile prese a correre senza fretta, maestosamente, con un ronzio sommesso per il lungo viale alberato. Era proprio una macchina di vecchio tipo, come pensò Marcello, ma tenuta in perfetta efficienza, amorosamente lucidata, con tutti gli ottoni e le nichelature sfavillanti. Adesso l'uomo, pur tenendo con una mano il volante, con l'altra aveva preso un berretto a visiera e se l'aggiustava sul capo. Il berretto confermava il suo aspetto severo. Vi aggiungeva un'aria quasi militare. Marcello domandò, impacciato: «È sua la macchina?» «Dammi del tuo», disse l'uomo, senza voltarsi, andando con la mano destra a premere la pompa di una tromba dal suono grave e anch'esso antiquato come la macchina. «Non è mia. È di chi mi paga. Io sono l'autista». Marcello non disse nulla. L'uomo, sempre stando di profilo e continuando a condurre la macchina con una precisione distaccata ed elegante, soggiunse: «Ti dispiace che io non sia il padrone? Ti vergogni?» Marcello protestò con vivacità: «No, perché?» L'uomo ebbe un leggero sorriso di compiacimento e accelerò l'andatura. Disse: «Adesso andiamo un po' in collina, sul Monte Mario, ti va?» «Non ci sono mai stato», rispose Marcello. L'uomo disse: «È bello, si vede tutta la città». Tacque un momento e poi soggiunse con dolcezza: «Come ti chiami?» «Marcello». «Già, è vero», disse l'uomo come parlando a se stesso. «Ti chiamavano Marcellina coi tuoi compagni. Io mi chiamo Pasquale». Marcello non fece a tempo a pensare che Pasquale era un nome ridicolo, che l'uomo, quasi avesse intuito il suo pensiero, soggiunse: «Ma è un nome ridicolo. Tu chiamami Lino». Adesso la macchina attraversava le larghe e sudice strade di un quartiere popolare tra squallidi casamenti. Gruppi di monelli che giocavano in mezzo all'asfalto si facevano da parte trafelati, donne scapigliate, uomini stracciati guardavano dai marciapiedi l'insolito passaggio. Marcello abbassò gli occhi, vergognoso di questa curiosità. «È il Trionfale», disse l'uomo. «Ma ecco Monte Mario». La macchina uscì dal quartiere povero, attaccò una larga strada a spirale dietro un tram tra due file di case allineate in salita. «A che ora devi essere a casa?» «C'è tempo», disse Marcello. «Non mangiamo mai prima delle due». «Chi ti aspetta a casa? Il papà e la mamma?» «Sì». «Hai anche fratelli?» «No». «E cosa fa tuo papà?» «Non fa nulla», rispose Marcello un po' incerto. La macchina ad una svolta sorpassò il tram e l'uomo, per prendere la voltata più stretta che fosse possibile, pesò con le braccia sul volante ma senza muovere il busto, con una destrezza piena di eleganza. Poi la macchina, sempre in salita, prese a correre lungo alte mura erbose, cancelli di ville steccate di sambuco. Ogni tanto un ingresso decorato di lampioncini veneziani o un arco con l'insegna color sangue di bue rivelava la presenza di qualche ristorante, di qualche rustica osteria. Lino domandò ad un tratto: «Tuo papà e tua mamma ti fanno dei regali?» «Sì», rispose Marcello un po' vagamente. «Qualche volta». «Molti o pochi?» Marcello non voleva confessare che i regali erano pochi e che talvolta le feste passavano addirittura senza regali. Si limitò a rispondere: «Così, così». «Ti piace ricevere regali?» domandò Lino, aprendo uno sportellino del cruscotto, togliendone un panno giallo e pulendo il vetro. Marcello lo guardò. L'uomo stava sempre di profilo, eretto il busto, la visiera del berretto sugli occhi. Disse a caso: «Sì, mi piace». «E che regalo ti piacerebbe ricevere, per esempio?» Questa volta la frase era esplicita e Marcello non poté fare a meno di pensare che il misterioso Lino, per qualche suo motivo, intendesse davvero fargli un regalo. Ricordò ad un tratto l'attrazione che gli ispiravano le armi e nel tempo stesso, quasi con la sensazione di fare una scoperta, si disse che il possesso di una vera arma gli avrebbe assicurato la considerazione e il rispetto dei compagni. Arrischiò, un po' scetticamente, consapevole di domandare troppo: «Per esempio, una rivoltella». «Una rivoltella», ripeté l'uomo senza mostrare alcuna sorpresa. «E che specie di rivoltella? Una rivoltella con le cartucce oppure una rivoltella a aria compressa?» «No», disse Marcello arditamente, «una rivoltella vera». «E che ne faresti di una rivoltella vera?» Marcello preferì non dire la vera ragione. «Ci sparerei al bersaglio», rispose, «fino a quando mi sembrasse di avere una mira infallibile». «Ma perché ti importa tanto di avere una mira infallibile?» L'uomo pareva, come pensò Marcello, muovere le domande più per gusto di farlo parlare che per vera curiosità. Tuttavia, rispose seriamente, «con una mira sicura ci si può difendere contro chiunque». L'uomo tacque per un momento. Poi suggerì: «Metti la mano in quella saccoccia, lì, nello sportello accanto a te». Marcello, incuriosito, ubbidì e sentì sotto le sue dita il freddo di un oggetto di metallo. L'uomo disse: «Tirala pure fuori». L'automobile ebbe un rapido scarto per evitare un cane che attraversava la strada. Marcello tirò fuori l'oggetto di metallo. Era proprio una rivoltella del tipo automatico, nera e piatta, pesante di distruzione e di morte, protesa in avanti con la canna come per sputare le pallottole. Quasi senza volerlo, con dita tremanti di compiacimento, egli strinse in pugno il calcio. «Una rivoltella come quella?» domandò Lino. «Sì», disse Marcello. «Ebbene», disse Lino, «se proprio la desideri, te la darò. Non quella, però, che è in dotazione alla macchina. Un'altra è quale». Marcello non disse nulla. Gli pareva di essere entrato in una magica aria di favola, in un mondo diverso da quello solito, nel quale autisti sconosciuti invitavano a salire in macchina e regalavano rivoltelle. Tutto sembrava diventato oltremodo facile, ma al tempo stesso non sapeva neppur lui perché gli pareva che questa facilità così appetitosa rivelasse in un secondo momento un sapore sgradevole, come se legata ad essa si celasse una difficoltà ancora ignota, ma incombente di prossima rivelazione. Probabilmente, come pensò con freddezza, nella macchina erano in due ad avere uno scopo. Il suo era di possedere una rivoltella, quello di Lino di ottenere in cambio della rivoltella qualche cosa di ancora misterioso e forse inaccettabile. Si trattava ora di vedere chi dei due avrebbe tratto dal baratto il maggiore vantaggio. Egli domandò: «Ma dove andiamo?» Lino rispose: «Andiamo nella casa dove abito a cercare la rivoltella». «E dov'è la casa?» «Ecco, siamo arrivati», rispose l'uomo, togliendogli di mano la rivoltella e mettendosela in tasca. Marcello guardò. La macchina si era fermata sulla strada, che ormai sembrava proprio un'ordinaria strada di campagna con gli alberi, le siepi di sambuco e dietro le siepi, i campi e il cielo. Ma poco più giù si vedeva un portale con un arco, due colonne e un cancello dipinto di verde. «Aspetta qui», disse Lino. Egli discese e andò al portale. Marcello lo guardò mentre spalancava i due battenti del cancello e poi tornava indietro. Non era alto, sebbene seduto lo sembrasse. Aveva le gambe corte rispetto al busto e i fianchi larghi. Lino risalì nella macchina e la guidò attraverso il portale. Apparve un viale ghiaiato tra due file di piccoli cipressi spennacchiati che il vento tempestoso scuoteva e tormentava. In fondo al viale, ad un labile raggio di sole, qualche cosa scintillò stridulamente sullo sfondo del cielo temporalesco. Una vetrata di veranda incassata in un edificio di due soli piani. «È la villa», disse Lino. «Ma non c'è nessuno». «Chi è il padrone?» domandò Marcello. «Vuoi dire la padrona?» corresse Lino. «Una signora americana, mai fuori, a Firenze». La macchina si fermò sul piazzale. La villa, lunga e bassa, con superfici rettangolari di cemento bianco e di mattoni rossi, alternate qua e là alle strisce di vetro specchiante delle finestre, aveva un porticato sostenuto da pilastri quadrati di pietra greggia. Lino aprì lo sportello e balzò a terra dicendo: «Allora, scendiamo». Marcello non sapeva che cosa volesse Lino da lui, né gli riusciva di indovinarlo, ma sempre più cresceva in lui la diffidenza di chi teme di essere ingannato. «E la rivoltella?» domandò senza muoversi. «È là dentro», rispose Lino con qualche impazienza, indicando le finestre della villa. «Ora l'andiamo a prendere». «Me la darai?» «Certo, una bella rivoltella nuova». Senza dir parola, Marcello discese anche lui. Subito li investì con una raffica calda e piena di polvere l'inebriante, funebre vento autunnale. Non sapeva neppur lui perché gli venne a quella raffica come un presentimento e, pur seguendo Lino, si voltò a guardare un'ultima volta allo spiazzo ghiaiato circondato di cespugli e di stenti oleandri. Lino lo precedeva ed egli notò che qualche cosa gli gonfiava la tasca laterale della tunica. La rivoltella che in macchina all'arrivo l'uomo gli aveva tolto di mano. Improvvisamente fu sicuro che Lino non disponeva che di quella rivoltella e si domandò perché mai gli avesse mentito e adesso lo attirasse dentro la villa. Cresceva in lui il senso dell'inganno e insieme la volontà di tenere gli occhi aperti e non lasciarsi ingannare. Intanto erano entrati in una vasta sala di soggiorno, sparsa di gruppi di poltrone e di divani, con un camino dalla cappa di mattoni rossi sulla parete di fondo. Lino, sempre precedendo Marcello, si diresse attraverso la sala verso una porta dipinta di turchino in un angolo. Marcello domandò, inquieto: «Ma dove andiamo?» «Andiamo in camera mia», rispose Lino leggermente, senza voltarsi. Marcello decise di fare ad ogni buon conto una prima resistenza, in modo che Lino comprendesse che aveva penetrato il suo gioco. Come Lino aprì la porta azzurra, disse, tenendosi a distanza, «Dammi la rivoltella subito, o se no me ne vado». «Ma non ce l'ho qui, la rivoltella», rispose Lino voltandosi a metà. «L'ho in camera mia». «Sì che ce l'hai», disse Marcello. «L'hai nella tasca della giacca». «Ma questa è della macchina». «Tu non ne hai altre». Lino parve avere un moto di impazienza subito represso. Marcello notò una volta di più il contrasto che formavano con il viso asciutto e severo, la bocca un po' molle e gli occhi ansiosi, dolenti, supplichevoli. «Ti darò questa», disse alfine. «Ma vieni con me». «Che ti fa? Qui possiamo essere visti da qualche contadino con tutte queste finestre». «E che male c'è che ci vedano?» avrebbe voluto domandare Marcello. Ma si trattenne, perché avvertiva oscuramente che il male c'era, sebbene gli fosse impossibile definirlo. «Va bene», disse puerilmente. «Ma dopo me la darai?» «Stai tranquillo». Entrarono in un piccolo corridoio bianco e Lino chiuse la porta. In fondo al corridoio c'era un'altra porta, azzurra. Questa volta Lino non precedette Marcello, ma gli si mise al lato e gli passò leggermente un braccio intorno alla vita domandando: «Ci tieni tanto alla tua rivoltella?» «Sì», disse Marcello, incapace di parlare per l'imbarazzo che quel braccio gli ispirava. Tommaso Ragno ha letto Il conformista di Alberto Moravia. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Jacopo De Bertoldi, Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per riascoltare il programma, radio3.rai.it. Per scaricarlo, raiplayradio.it.